Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Legge di stabilità, fiducia in arrivo, annuncia Franceschini, ma sulla manovra la situazione resta attesa. Forza Italia promette battaglia. È arrivata poco fa, tra l'altro, la notizia che verrà rinviato di nuovo il Consiglio dei Ministri, che deve cancellare la seconda rata IMU. Berlusconi intanto torna a parlare di colpo di Stato. Petrolio in netto calo dopo l'accordo sul programma nucleare iraniano. Le prime sanzioni via già da dicembre, riferisce il ministro degli esteri francese. Fissata per gennaio la nuova conferenza sulla Siria. Napolitano nomina cavaliere una donna sfregiata dall'acido. Letta: dichiariamo guerra alla violenza sulle donne. Oggi la giornata mondiale. Parte anche la campagna Noi No, con portavoce il cantautore Daniele Silvestri. Tra poco l'intervista. A Molfetta, 4 arresti per una serie di violenze di gruppo su una ragazzina di 14 anni. Sarebbero coinvolti anche dei minorenni non ancora identificati. Negli armadi del comune di Olbia giacciono 1.400 pratiche inevase per condoni. Tra poco ospite il sindaco per fare anche il punto sulla situazione in città e degli aiuti. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Apriamo ancora una volta parlando di politica economica, perché c'è la legge di stabilità e ci sarà la fiducia, come ha annunciato Franceschini poco fa, mentre Letta ha annunciato poco fa che verrà rinviato di nuovo il Consiglio dei Ministri sull'IMU. Per tutti gli aggiornamenti con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Tempi stretti dunque per l'iter parlamentare della manovra a Palazzo Madama, un calendario, quello della legge di stabilità, che confligge di fatto con la data del 27 novembre, giorno di convocazione dell'Aula del Senato per il voto di decadenza di Berlusconi. L'obiettivo del governo è allora quello di chiudere la partita del provvedimento economico entro domani sera, di cui l'annuncio di questa mattina del ministro Franceschini sulla legge di stabilità. Sarà posta la fiducia. Il provvedimento, lo ricordiamo, è ancora in commissione bilancio, con temi importanti che devono essere votati. La fiducia, ha spiegato allora il ministro, per i rapporti con il Parlamento è necessaria anche per verificare politicamente, con chiarezza e senza ambiguità, il rapporto fiduciario tra governo e maggioranza parlamentare. Questo aggiungiamo noi alla luce della scissione del Popolo della Libertà e con i nuovi equilibri del governo di larghe intese. Sarà comunque la capigruppo delle 15 del Senato a fissare definitivamente il calendario delle prossime ore. Altra conseguenza, Simone, dell'ingorgo al Senato, e lo hai anticipato da studio, è che slitterà dopo la decadenza il decreto atteso per domani in Consiglio dei Ministri sullo stop della seconda rata dell'IMU sulla prima casa. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e noi veniamo proprio all'IMU, in particolare l'IMU sui capannoni e sugli immobili industriali. Oggi sono due pagine dedicate a questo sul Sole 24 Ore, nelle quali vengono fatti i conti, e sono conti molto pesanti per le imprese e i professionisti. Cristiano Dell'Oste, buongiorno. Buongiorno. Ce li fai questi conti? Diciamo che mentre il grosso dell'azione si concentra sulla abolizione dell'IMU sull'abitazione principale, c'è un punto fermo, ed è che sulle seconde case e sugli immobili industriali si dovrà pagare il saldo, al momento in scadenza salvo proroghe, il 16 di dicembre. Cosa dovranno pagare le imprese? Le imprese dovranno pagare, si può fare il conto partendo dalle elaborazioni che ha fatto per il Sole del lunedì il CAF ACLI, il 62% in più rispetto a quello che avevano pagato nel 2011 con l'ICI, e questo stando soltanto alle aliquote medie, perché poi ovviamente nei diversi comuni possono esserci anche rincari più elevati. La sostanza è che, appunto, mentre si discute dell'IMU sulla prima casa, le rilevazioni del CAF ACLI mostrano che le delibere prese dai comuni per il 2013 comportano un aumento praticamente su tutte le tipologie di fabbricati attualmente tassati, quindi sicuramente gli immobili delle imprese, che sono quelli che subiscono il rincaro più alto in percentuale, ma anche le seconde case affittate, quelle sfitte e quelle date in prestito ai parenti, su cui i comuni cercano qua e là di fare qualche piccolo sconto simbolico, ma per le quali alla fine il prelievo risulta comunque ancora in aumento. Grazie a Cristiano Dell'Oste. Grazie. Tutti i dettagli sul Sole 24 Ore oggi in edicola, e come si diceva il tutto si incrocia con una situazione politica che rimane molto tesa. Sentiamo. Nonostante il richiamo irritato arrivato ieri sera dal Colle, Silvio Berlusconi non molla e resta all'attacco. Il cavaliere ripete che il voto sulla sua decadenza, in programma mercoledì, è un colpo di Stato che parte da una sentenza politica, quella che lo ha visto condannato per frode fiscale nel processo sui diritti TV Mediaset. In due interviste rilasciate nelle ultime ore, Berlusconi ha annunciato che oggi presenterà nuove carte arrivate dagli Stati Uniti che dimostrerebbero la sua innocenza. carte sulla base delle quali chiederà la revisione del processo. Ieri il presidente della Repubblica Napolitano aveva giudicato gravissime le dichiarazioni con le quali Berlusconi sabato aveva paragonato la sua vicenda proprio ad un golpe. Il capo dello Stato ha anche aggiunto che non ci sono le condizioni per concedere la grazia al Cavaliere, contro il quale oggi torna ad intervenire il Partito Democratico. Per Danilo Leva, responsabile giustizia del partito, ormai Berlusconi è andato oltre l'ammissibile. La sua è una deriva eversiva e costituisce un pericolo per le istituzioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vogliamo parlare della Svizzera, ieri, dove è stato bocciato in maniera direi sonora il referendum con il quale sostanzialmente si chiedeva che gli stipendi dei manager non superassero le 12 volte lo stipendio di un dipendente medio. Ci colleghiamo proprio con la Svizzera e con Lino Terlizzi. Buongiorno Lino innanzitutto. Buongiorno a voi. Allora, ci spieghi come mai gli svizzeri hanno deciso di bocciare questo referendum, che in realtà qualche proselito l'ha raccolto anche in Italia? Sì, ma anzitutto bisogna considerare che nei mesi scorsi, nel marzo scorso per l'esattezza, c'era già stato un referendum su questo capitolo dei maxi compensi ai top manager, ed era la famosa iniziativa Minder, dal nome del piccolo imprenditore svizzero che l'ha promossa e che è stata approvata. Quindi praticamente dall'inizio del 2014 è già previsto che i compensi ai top manager delle imprese elvetiche quotate passino attraverso l'assemblea degli azionisti, quindi non sono più solo di competenza dei consigli di amministrazione, ma deve esserci la luce verde dell'assemblea degli azionisti. Sono poi previsti altri meccanismi che, insieme a questo punto principale, sostanzialmente già frenano la tendenza a far lievitare questo tipo di compensi. E poi bisogna dire che è stata una scelta pragmatica da parte degli elettori elvetici, perché gli argomenti degli oppositori, cioè il fatto che ci fosse il rischio, approvando l'iniziativa 1.12 in questo fine settimana, che un certo numero di imprese, anche di multinazionali, se ne andassero dalla piazza elvetica, era un rischio abbastanza concreto che è stato valutato. Grazie a Lino Terlizzi e buona giornata anche a te naturalmente. Noi veniamo alla visita del presidente Putin in Italia, oggi prima a Roma e domani a Trieste. Arriverà alle 16.30, un corteo blindato di 50 macchine porterà con sé quasi l'intero governo della federazione. Nel pomeriggio sarà ricevuto in Vaticano dal Papa, sentiamo. L'agenda è fittissima prima del vertice italo-russo di Trieste, ma Vladimir Putin non poteva rinunciare ad una rimpatriata con il vecchio amico Silvio Berlusconi e così si recherà a Palazzo Grazioli nella settimana più difficile del Cavaliere, dopo aver cenato con il presidente Napolitano e dopo essere stato ricevuto in udienza nel pomeriggio dal Papa. Non è la prima visita in Vaticano, due volte è stato ricevuto da Giovanni Paolo II e una da Benedetto, ma oggi lo scenario è molto diverso, dopo la lettera inviatagli dal Papa lo scorso settembre per scongiurare un intervento armato in Siria e la convergenza stabilita dunque tra Santa Sede e Cremlino. La politica internazionale dunque dominerà, con la Siria, l'Iraq, il Medio Oriente e i colloqui, con un Putin sempre più interessato a presentarsi come protettore dei cristiani. Sullo sfondo il processo di dialogo e riavvicinamento tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. La prospettiva di un incontro con il patriarca di tutte le Russie, Kirill, si fa più concreta, grazie alla connotazione poco occidentale del Papa e al suo presentarsi come vescovo di Roma. Incontro però che, più che a Mosca, a questo si sta lavorando, potrebbe avvenire in territorio neutro. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi, come sentivate dai titoli, è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Notizia di poco fa, il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha conferito l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica all'avvocato Lucia Annibali, l'avvocatessa di Pesaro sfregiata con l'acido per ordine del suo ex fidanzato. Il presidente del Consiglio Letta dice: metteremo in campo una vera e propria guerra contro la violenza alle donne. C'è anche una campagna della quale vogliamo parlare. parlarvi, si chiama noino.org, uomini contro la violenza alle donne, una delle tante iniziative. A parlare sono appunto uomini noti, tra questi anche il cantante, il cantautore Daniele Silvestri, l'ho intervistato Cristina Carpinelli. C'è un atteggiamento di noi maschi probabilmente non adeguato, no? Credo che sia fondamentale tenere aperti occhi e orecchie, ascoltare e intervenire e magari cercare di aprire gli occhi a chi conduce spesso delle doppie vite, no? Ci sono persone, uomini abbastanza difficilmente sospettabili delle azioni, non sempre poi fisiche, no? Spesso la violenza è una violenza psicologica di cui invece si macchiano nel quotidiano dentro le mura domestiche. Senta, lei è stato mai testimone di una violenza, cioè ha mai agito attivamente rispetto a una violenza? È capitato quando ero un poco più che un ragazzino di trovarmi banalmente nella condizione di difendere una ragazzina molestata, però mi è capitato in tempi molto più recenti e perfino recentissimi di venire a conoscenza di storie anche non sospettabili dal di fuori, di famiglie e persone che mi sono vicine, quindi. E ha denunciato, ha aiutato in qualche modo o ha lasciato che le cose si sistemassero per conto proprio? Beh, qui il discorso è un po' più complesso, non è facile, anche aiutare non è facile, soprattutto quando conosci tutta una famiglia e magari non ci sono dei rapporti che durano da anni, però sì, qualcosa ho provato a fare non solo io, non da solo, ma con le altre persone intorno, altre persone amiche, sia nel dare conforto e supporto alla donna in questione, ma in piccola parte anche cercando di far ragionare il marito. Ma spesso è molto difficile perché c'è una negazione totale di questa realtà, no? Verso l'esterno, no? E probabilmente anche verso l'interno. Cioè, credo che molti di questi uomini non accettano, non anche sentendoci parlare adesso, non si riconoscerebbero in questa descrizione. E noi veniamo adesso a parlare di Roma. Che cosa succede a Roma in queste ore? Il Consiglio Comunale entro il 30 novembre deve approvare il bilancio previsionale per evitare il rischio di commissariamento. È comprensibile a questo punto che gli animi si scaldino, probabilmente non così tanto come è successo ieri. Urla, fischi, spinte, qualche schiaffone e una gomitata in testa al sindaco Ignazio Marino. Abbiamo in linea un testimone dei fatti, Dario Nanni, presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, Marino l'ha definita non involontaria la comitata che sarebbe stata data da Dario Rossin di Fratelli d'Italia. Lei che cosa ci dice? Beh, guardi, innanzitutto vorrei dire che è stata circoscritta una persona, diciamo la lista, ha fatto tutto da solo. È l'unico che ha alzato le mani in maniera impropria e senza nessuna motivazione di nessun tipo. Dopodiché, francamente, quando fa un gesto come ha fatto Rossin di tirare via il microfono in quella posizione a 30 centimetri da una persona, che poi sia il sindaco, diciamo, secondario, insomma, poteva essere un'altra persona, era la stessa cosa, inevitabilmente doveva anche immaginare che poteva provocare quello che ha fatto, ovvero una gomitata sulla testa, insomma, quindi. Ma ha fatto volare qualche altro schiaffone anche Rossin, da quel che abbiamo capito. Non contento, diciamo, si è avvicinato il collega Piciola, che è il gruppo di SEL, gli ha rifilato due pizze, insomma, quindi diciamo era molto fomentato ieri e quindi fortunatamente nessuno ha risposto a questa reazione, a questo gesto. E dice Marino che ha sentito un turpiloquio mentre questa persona si avvicinava, mentre Rossin si avvicinava. Cosa ha detto? Ci sono anche delle registrazioni, qualche giorno fa anche in aula disse delle cose, chiedendo anche di metterle a verbale, che se le cose non fossero andate come lui diceva avrebbe messo a ferro e fuoco l'aula. Vabbè, allora Nanni, io la ringrazio per la sua testimonianza e la saluto anche perché l'audio è orrendo, insomma, c'è chi suggerisce magari in una panic room perché, insomma, potrebbe essere a rischio. Passiamo ad altre cose, insomma, questa era un po' meno seria per quello che è avvenuto, ma importante perché si tratta del bilancio del Comune di Roma, e però veniamo a cose importanti a livello internazionale perché... Parliamo dell'accordo raggiunto per un progressivo ritiro delle sanzioni all'Iran, il famoso accordo sul nucleare tanto criticato da Israele. Sono due i fronti caldi in questo momento: la questione iraniana, già da dicembre, riferisce il ministro degli esteri francese Fabius, le prime sanzioni potrebbero essere tolte, e poi la Siria. È stata fissata da poco per gennaio la nuova conferenza dal 2 al 22 di gennaio. Saluto Alberto Negri. Buongiorno Alberto e benvenuto. Buongiorno Simone. Tra l'altro tu stai seguendo anche questa visita di Vladimir Putin, della quale abbiamo parlato a Roma, nella capitale. Si è portato appresso 11 ministri, tra questi c'è anche Lavrov, il ministro degli esteri, che di queste cose sta parlando, Alberto, no? Certo, infatti proprio adesso stiamo qui con Lavrov e il ministro degli esteri italiano Bonino, e Lavrov ci confermava ovviamente la data del 22 gennaio per la conferenza di Ginevra sulla Siria, ma poi anche un altro punto assai importante, che è anche una conseguenza dell'accordo di Ginevra in un certo senso, cioè che la Russia chiede l'allargamento della conferenza sulla Siria anche all'Arabia Saudita e soprattutto all'Iran. Ecco, quindi abbiamo già, se vogliamo, uno degli effetti degli accordi che si sono raggiunti sabato notte. Accordi importanti, naturalmente, che vengono pesantemente criticati da Israele. Questo avrà un impatto, secondo te, Alberto, oppure no? No, ce l'ha già avuto, se vogliamo, no? Perché Israele si è subito chiaramente molto irritata per questa vicenda, e oggi c'è stato già forse la prima vittima, forse, che potrebbe essere appunto la questione del negoziato con i palestinesi. Oggi il governo israeliano ha provato altri 800-900 insediamenti, no? Sono in realtà dispetti, se vogliamo, tra virgolette, che vengono fatti dal governo israeliano, che vuol far capire esattamente tutto il suo risentimento per questo accordo. Credo che però le reazioni più nervose verranno proprio dal Golfo, cioè dall'Arabia Saudita, un paese che naturalmente teme un ritorno dell'Iran in chiave strategica nel Golfo. Grazie ad Alberto Negri del Sole 24 Ore per essere stato con noi. Allora, dalla grande politica estera al nostro piccolo calcio, però insomma ne parliamo tutti, e ne parliamo tra poco con il nostro Dario Ricci, che è già in studio, ma prima la viabilità. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Legge di stabilità, fiducia in arrivo, annuncia Franceschini sulla manovra, la situazione resta attesa. Intanto viene rinviato, dopo il voto sulla decadenza di Berlusconi, il Consiglio dei Ministri sull'IMU. Il Cavaliere intanto torna a parlare di colpo di Stato. Napolitano ha nominato cavaliere una donna sfregiata dall'acido. Letta dice: dichiariamo guerra alla violenza sulle donne. Oggi la giornata mondiale. Petrolio in netto calo dopo l'accordo sul programma nucleare iraniano. Prime sanzioni via già da dicembre, riferisce il ministro degli esteri Fabius. È stata fissata per gennaio intanto la nuova conferenza sulla Siria. Negli armadi del comune di Olbia giacciono 1400 pratiche inevase per i condoni. Tra poco ospite il sindaco per fare anche il punto sulla situazione in città e degli aiuti. In apertura di questa seconda parte però vogliamo parlare di calcio. Ci sono tante cose da dire, a partire da una situazione del Milan veramente devastante. Allora, Dario Ricci, devastante la situazione del Milan, Juventus e Roma in testa alla classifica, sembra uno scenario da inizi anni 80. Hai proprio ragione Simone, meglio perché almeno ci sentiamo anche un po' più giovani, no? Beh, intanto stasera 20:45 Roma-Cagliari, vedremo se la tua Roma saprà riprendersi la testa della classifica rispetto al sorpasso operato dalla mia Juventus ieri. E poi c'è tutto questo capitolo del socio cinese che ha mandato in frantumi la già fragile tregua tra James Pallotta e Unicredit, no? Pure quello tema parecchio parecchio interessante. Ma dicevamo il Milan che sta volando verso la Scozia, domani partita decisiva in Champions contro il Celtic Glasgow. Ebbene, le notizie del giorno sono che a Milanello si è presentata stamattina per portare il sostegno della società, così lei stessa ha detto, Barbara Berlusconi, mentre Adriano Galliani, che di solito ha questo ruolo e anche questa liturgia nella giornata della vigilia, raggiungerà la squadra direttamente a Malpensa, quindi insomma sempre separati, sempre di più separati in casa, con un Galliani dato in uscita già a dicembre, salvo congrua buona uscita. E poi c'è l'altra notizia che quasi non lo è più, cioè l'ennesimo ritardo di Mario Balotelli all'allenamento. Ieri erano stati oggi 20 minuti di ritardo sull'appuntamento fissato alle 10.30 in vista della seduta alle 11.30, quindi un Balotelli che sembra un po' scollegato dal momento del Milan. Naturalmente. E invece per quanto riguarda la parte alta della classifica, è tutto in attesa di questa sera, no? Roma-Cagliari interessante per tanti motivi, perché la Roma si trova a giocare con questa tensione societaria a due giorni dalla sfida all'Olimpico che ha visto protagonista l'Italia del rugby contro l'Argentina, e quindi Rudy Garcia ha sollevato il tema qualità del terreno di gioco. E poi in questa prima sfida, che è forse la prima del campionato, in cui i giallorossi sono un po' sotto pressione perché si trovano a dover vincere per difendere il primo posto in classifica, quindi partita tutta da vedere, con un occhio anche a quella che saranno gli striscioni sulle curve. Immancabile sarà l'omaggio alla popolazione sarda colpita dall'alluvione di questi giorni. Grazie a Dario Ricci, e poi noi sulla Sardegna torneremo tra poco, come già sentivate dai titoli, con il sindaco di Olbia. Adesso, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, vi vogliamo raccontare una storia, una vicenda di cronaca, i cui particolari, almeno una parte dei particolari, è stata diffusa questa mattina. Una violenza di gruppo nei confronti di una ragazza di 14 anni violentata da 10 persone tra i 18 e i 24 anni. Allora, io saluto chi ha curato l'inchiesta, il procuratore aggiunto Francesco Giannella, procuratore aggiunto a Trani. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come nasce la vicenda, procuratore? La vicenda non nasce in maniera molto semplice, perché la ragazza vittima di questa violenza non ha subito denunciato i fatti. La notizia in realtà è trapelata un po' dalle confidenze che questa ragazza faceva ad alcune persone, è stata captata, diciamo così, da alcuni investigatori che ci hanno lavorato bene su, e nel giro di qualche mese sono riuscito a ricostruirla e poter anche arrivare a identificare i responsabili. Sono 10 maggiorenni coinvolti? No, non è esatto. No, non in realtà è esatto. È una decina, e di una decina il gruppo delle persone che avevano partecipato a questo stupro, in realtà alcuni in maniera attiva e altri semplicemente, anche se la parola semplicemente non è molto sensata, assistendo ai fatti. Di queste persone ne sono state identificate con certezza 7, quattro sono maggiorenni e 3 minorenni. Per la verità, uno di questi minorenni era proprio aveva un'età esattamente a cavallo del compimento del 18° anno. E come è avvenuto il contatto con questa ragazza? Come è iniziato il tutto? Anche qui le indagini hanno ricostruito con difficoltà tutto l'antefatto. Si tratta di una ragazza che aveva ovviamente una serie di frequentazioni, una serie di amici, e nell'ambito di queste frequentazioni si è sviluppata questa vicenda. Quindi si trattava di persone parzialmente conosciute che hanno evidentemente approfittato della frequentazione, della conoscenza con questa ragazzina, per abusarne poi in un momento in cui lei era sola e gli altri invece si facevano tutti forza vicendevolmente. Peraltro, chiedo scusa, mi interrompo. Prego. Peraltro c'è anche questa storia del profilo Facebook falso che a nome della ragazzina era stato creato e che aveva dato l'opportunità ad alcuni giovani di credere che questa ragazza fosse disponibile. Ma chi lo aveva creato questo profilo? Naturalmente le indagini non possono essere rivelate in tutti i loro dettagli, però si tratta di persone vicine, coetanei, che un po' per scherzo avevano fatto questo, ma purtroppo poi, ed è questo un aspetto che l'ha sottolineato molto, molto fortemente. Allora, sì. No, procuratore, in questa giornata a me interessa anche capire se queste persone che voi avete arrestato, come hanno reagito all'arresto, se si sono rese conto della gravità della cosa. Questo purtroppo non glielo posso dire perché non ho naturalmente partecipato direttamente alla cosa. Tra l'altro i giovani si trovano agli arresti domiciliari, non sono stati condotti in carcere, perché questa è stata la decisione che ha adottato il giudice delle indagini preliminari. Il tipo di reazione non glielo posso dire, perché non lo so, non lo conosco. Certo posso dirle che anche da parte della vittima la consapevolezza della gravità di ciò che era accaduto non è stata una cosa acquisita immediatamente. Ci vuole del tempo per una ragazza di 14 anni per capire davvero cosa le è successo. Da che mondo proviene tutta questa storia, procuratore? Persone, direi, sostanzialmente normali, per quanto la parola sia poco appropriata. Non si tratta né di ambienti estremamente degradati, né di ambienti facoltosi, del tutto comune. Una storia che si inquadra in un ambiente comune di giovani che fanno la vita che fanno quasi tutti. Ultima domanda che le voglio fare in realtà è quella sottolineatura che lei voleva fare e sulla quale l'ho interrotta. Che cosa voleva sottolineare? Le volevo dire questo, che l'uso dei social network davvero, in particolare l'uso di social network nei quali si possono creare profili veri o presunti o falsi, sta diventando, è diventato ormai un problema serio su cui occorre una riflessione importante, perché non è la prima volta e non sarà purtroppo l'ultima in cui questi mezzi di contatto rappresentano un modo per facilitare, per addirittura incoraggiare certe vicende. Ma avete avuto altri casi, procuratore? Voi dico come Trani? Come Trani no, però l'esperienza e la conoscenza dei fatti delle altre procure e anche aver partecipato ad incontri a questo riguardo mi consente di affermarlo. Grazie al procuratore aggiunto Francesco Giannella per essere stato con noi e per averci consentito di raccontare questa storia che in una giornata come quella di oggi ci sembra particolarmente importante. Una pausa, ci ritroviamo tra poco, ci sarà l'inchiesta di Daniele Biacchessi come ogni lunedì, questo lunedì sul tesseramento nel Partito Democratico, e poi ci collegheremo col sindaco di Olbia per fare il punto sulla situazione. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Rinviato a dopo il voto sulla decadenza di Berlusconi il Consiglio dei Ministri sull'IMU, legge di stabilità, fiducia in arrivo, annuncia Franceschini. Petrolio in calo dopo l'accordo sul programma nucleare iraniano, fissata per gennaio la nuova conferenza sulla Siria. Napolitano nomina cavaliere del lavoro una donna sfregiata dall'acido, oggi la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E a Molfetta 4 arresti per una serie di violenze di gruppo su una ragazza di 14 anni. È il momento dell'inchiesta di Daniele Biacchessi, oggi dedicata al tesseramento PD. La battaglia politica dei quattro candidati alla guida del Partito Democratico, Matteo Renzi, Gianni Cuperlo, Pippo Civati e Gianni Pittella, mette in questi giorni in secondo piano lo scandalo derivato dall'aumento vertiginoso delle tessere del PD nelle settimane in cui erano in corso le votazioni alle assemblee dei circoli del partito. Per ricostruire luoghi, fatti e nomi, partiamo dall'ultimo tassello delle tante inchieste ultimamente aperte dalla magistratura. L'indagine del PM Mafia di Salerno Vincenzo Montemuro evidenzia in queste ore una decina di persone iscritte in alcuni circoli di Salerno città, di Pagani e di Eboli, che apparterebbero a famiglie criminali, in particolare in odore di camorra. Ma ciò che è accaduto a Salerno è forse la punta di un iceberg delle cattive pratiche politiche avvenute in questi mesi all'interno del PD. I dati percentuali degli iscritti parlano chiaro. Reggio Calabria più 315,9%, Matera più 304,3%, 2,3%, Napoli più 303, Campobasso 293,3% in più e Termoli 264,2%. E non è finita, perché quattro congressi della provincia di Asti, compreso quello di Città, sono stati annullati dalla commissione di garanzia del partito e ora si dovrà votare di nuovo per il congresso. Ad Asti infatti si era registrato un boom di iscrizioni al PD di cittadini immigrati, specie di albanesi. Storie analoghe si sono poi manifestate a Rovigo, Frosinone, Cosenza. Nell'affollata conferenza stampa dello scorso 4 novembre il segretario del partito Guglielmo Epifani aveva parlato di casi isolati. E che per quello che mi riguarda la segreteria, abbiamo dato indicazione sia alla Commissione Nazionale di Garanzia sia alla Commissione del Congresso di procedere con un rigore assoluto. Ogni qualvolta si fosse accertato l'esistenza di violazione di principi statutari o di principi regolamentari, le commissioni avranno la piena facoltà di procedere con l'annullamento dei congressi, con lo spostamento dei congressi e anche con sanzioni a carico di chi eventualmente si fosse macchiato di qualche responsabilità verso le norme del regolamento e le norme dello statuto. È vero, saranno anche casi isolati, ma restano casi gravissimi che gettano una luce oscura alla vigilia dell'8 dicembre, il giorno in cui alcune centinaia di migliaia di persone dovranno scegliere il loro segretario politico di riferimento e probabilmente l'uomo che guiderà o traghetterà il paese nei prossimi anni dopo l'esperienza del governo di larga intesa. E andiamo alla Sardegna adesso. Saluto Gianni Giovannelli, sindaco di Olbia. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose, sindaco? Ma piano piano stiamo uscendo dall'emergenza. Diciamo che va bene lo smaltimento dei rifiuti e l'avvio ad altre discariche della provincia, per cui si è alleggerita enormemente la presenza di residui in città, per cui le strade sono assolutamente transitabili, abbiamo riaperto la maggior parte delle scuole, per una l'abbiamo, un paio le abbiamo trasferite in altri siti, in altri istituti, per cui siamo impegnati in un'opera di verifica e di censimento e di verifica delle condizioni degli alvei dei canali. Continua la distribuzione di generi di prima necessità, perché ancora si è scattata una macchina. Io ringrazio tutti gli italiani, sindaco, perché c'è stata una grande macchina della solidarietà. Sindaco, abbiamo veramente un minuto, brevissimo. Vorrei chiederle questo: dei giorni scorsi è la notizia che nei vostri armadi ci sono 1400 pratiche sui condoni che stanno ferme là da 30 anni, sono quelli congelati, quelli che non si sa se l'abuso può essere sanato o deve essere abbattuto. Vorrei capire da lei che impatto hanno avuto i condoni sulla su quello che è successo, insomma, l'uso e il consumo del suolo e del vostro territorio. Beh, non dobbiamo parlare di 1000 pratiche arretrate, ma dobbiamo parlare di un'intera città che è nata negli anni in cui non c'erano regole urbanistiche e purtroppo sono maggior parte delle aree sono state condonate, delle aree edificate sono state condonate, gli immobili ovviamente negli anni 80, 90 e 2000, dal 2006 nessun condono può essere rilasciato ad abitazioni o porzioni di abitazioni costruite nelle aree interessate dal PAI, cioè dal piano di assetto idrogeologico, per cui oggi sono norme molto rigide, per cui noi rigettiamo anche quei condoni, anche vecchi, che però non possono trovare alcuna approvazione da parte del comune perché insistono in zone a rischio. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, torneremo a sentirla sicuramente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, perché non vogliamo, insomma, lasciarla. Grazie ancora per quello che state facendo.